Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a tutti a Salva Danaio da Deborah Rosciani e buona giornata. Qualche settimana fa il Sole 24 Ore evidenziava molto correttamente come pochi sul finire del secolo scorso avrebbero scommesso che il nuovo millennio si sarebbe aperto all'insegna del metallo giallo. Nel 2001 le quotazioni dell'oro, pensate, viaggiavano intorno ai $250 l'oncia. Oggi siamo ben oltre i 1700 e non siamo neanche al record raggiunto nell'ultimo anno. E praticamente in questo periodo il guadagno è stato di oltre il 500% in poco più di 10 anni e la tendenza sembrerebbe ancora rialzista, almeno da un punto di vista tecnico, secondo alcuni esperti. Al di là dei fattori di tipo fondamentale, l'aumento della domanda di metallo fisico, l'incremento delle riserve da parte delle banche centrali, la diminuzione dei tassi di interesse che ha portato molti fondi di investimento a puntare appunto su questo strumento, l'oro ha sicuramente fatto valere anche la sua natura di bene rifugio per eccellenza. D'altronde questi ultimi anni sono stati attraversati da due gravi crisi borsistiche, quella nel 2000 con il crollo della New Economy e quella seguita appunto alla crisi dei mutui subprime dal 2007 in avanti. C'è una situazione congiunturale che ancora non dà sufficienti garanzie per una ripresa stabile a livello internazionale, tutte circostanze che stanno portando molti investitori, piccoli e grandi, a cercare la massima protezione del proprio investimento. Ecco perché abbiamo ritenuto opportuno ritornare su questo tema che incuriosisce molti ascoltatori interessati all'investimento in oro, ma lo abbiamo fatto anche in virtù di un evento singolare che ci piaceva raccontare ai nostri ascoltatori. Giovedì, dopodomani, si terrà in Svizzera l'esposizione del Big Phil, la moneta più grande d'Europa, una moneta d'oro austriaca gigantesca, pesa 31 kg e ha un diametro di 37 cm, un valore nominale di 100.000 euro, ma un valore in oro da 1.300.000 euro. Salva Danaio lo raccoglie l'occasione di questo curioso primato per tornare a parlare di investimento in oro, consigliando agli ascoltatori sulle modalità più indicate, le informazioni più importanti da ricercare, gli accorgimenti necessari per chi sceglie di organizzare e progettare il proprio portafoglio facendo affidamento sulle caratteristiche e le performance di questa materia prima. Con noi stamattina Maurizio Mazziero, analista di Mazziero Research, esperto di queste tematiche. Lo disturbiamo frequentemente quando ci piace raccontare come stanno andando i prezzi delle materie prime. Maurizio, buongiorno e bentornato a Salva Danaio, benvenuto. Buongiorno, ci sente? Eccoci qua. Ascoltatori. Abbiamo poi al telefono il dottor Ralph Toma, amministratore delegato di ProAurum, che è la società che ha organizzato questa esposizione in Svizzera, vicino a Lugano, credo. Dottor Toma, buongiorno e benvenuto, poi ci racconterà tutto e buona giornata. Ci sente? Buongiorno. Eccoci. Buongiorno qua. Deborah, buongiorno a tutti. E poi naturalmente, siccome non ci dobbiamo ricordare che anche su un investimento di questo tipo vanno pagate le tasse, quindi qual è anche la fiscalità di un tipo di investimento di questo tipo, abbiamo disturbato di nuovo ed è venuto a trovarci qui in studio a Milano l'avvocato Fabrizio Vedana, vice direttore generale di Unione Fiduciaria, ma oggi in realtà è qui con noi in qualità di autore, uno dei tre autori del libro Investimenti in Oro, la guida del Sole 24 Ore appunto a questi investimenti, uscito da pochissimo, in realtà è una riedizione, avvocato Vedana, giusto? Esatto, Deborah, buongiorno. Un aggiornamento, perché non solo cambiano le quotazioni dell'oro, ma cambia anche tutta la fiscalità intorno agli strumenti finanziari, per cui bisogna tenersi aggiornati dettagliatamente. 800 24 00 24 è il numero verde per le vostre domande su questo argomento, 349 238 6666, se invece volete scriverci dei messaggi, oppure potete andare anche su Facebook, noi abbiamo il nostro profilo all'indirizzo salvadanaio-radio24, potete twittarci anche al nostro indirizzo su Twitter @salvadanaio24, potete scriverci anche delle mail all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Insomma, non possiamo sfuggirvi se avete delle curiosità sull'oro. Solo due secondi per raccontare la borsa che oggi è negativa, Milano perde adesso lo 0,55%. -0,7 Londra, -0,9 Francoforte, che oggi è la peggior piazza d'Europa. Parigi -0,6 Moody's ha emesso un nuovo verdetto negativo su 5 regioni spagnole, e nonostante questo però c'è stata un'asta di titoli di Stato appunto in Spagna che è andata bene. Il Tesoro ha collocato 3 miliardi e 530 milioni di bonus, superando l'obiettivo di 3 miliardi e mezzo, quindi ha collocato qualcosa in più, con tassi che sono risultati in discesa, per esempio alle 2,02% sul titolo a 6 mesi, mentre sono saliti all'1,41% sul titolo a 3 mesi. Questo è il quadro di borsa. Noi oggi parliamo però di investimento in oro. In regia sorridono, non capisco per quale motivo, anche noi dobbiamo un po' allietare la nostra trasmissione. Se me lo abbassi un pochino, altrimenti non riesco a farmi sentire bene dagli ascoltatori, che invece sono molto interessati a questo argomento. D'altronde in tanti hanno ricercato la massima protezione del proprio investimento negli ultimi anni, scegliendo l'oro fisico, quindi lingottini, monete, ma anche oro finanziario, quindi fondi di investimento, ETF anche, appunto, che investono su queste, sulle materie prime, e in quel caso il loro acronimo è ETC. Maurizio Mazziero, allora, lo scorso anno le quotazioni hanno sfiorato i $2,000 l'oncia, adesso viaggiamo leggermente al di sotto, se non ricordo male, dei 1800. Quali sono le motivazioni che ancora stanno sostenendo così tanto le quotazioni? Sono motivazioni finanziarie? Ci sono delle ragioni geopolitiche? Cosa sta succedendo in questo mercato? Senz'altro io incoraggerei gli ascoltatori a magari a non guardare proprio la giornata di oggi, che è una giornata che vede l'oro scendere di circa 11 punti in questo momento a $1,714 l'oncia, ma cercherei di focalizzarsi su quello su quelle che sono innanzitutto la ciclicità delle materie prime. L'oro è una materia prima, le materie prime sono contraddistinte da un ciclo che è ventennale, e siamo nel ciclo ventennale di rialzo che è iniziato agli inizi di questo secolo, quindi dal 2000. Detto questo, però, l'aspetto su cui dobbiamo andare a vedere è quello dell'estremo debito che hanno le economie, e le economie occidentali, di quello che si sta facendo per risolvere questo debito. Quello che si sta facendo è quello di stampare ulteriormente in maniera virtuale dell'altro denaro, quindi i bilanci delle banche centrali si allargano. E a questo punto diciamo che si deve andare a vedere un po' anche alla correlazione fra quello che sono le monete in circolazione, e quindi le banconote, e quello che è, diciamo, carta, la valuta fiduciaria, e quello che è il vero valore che ha contraddistinto tutto il progresso dell'umanità ancora dai tempi dei romani, ma prima ancora egizi, sumeri e così via. Quindi questo è uno dei punti fondamentali. L'altro aspetto è come si uscirà da questa crisi, molto probabilmente con un'iperinflazione. Ebbene, in questo caso ci vuole un valore che tenga agganciato, diciamo, il potere d'acquisto, e in questo caso è facilmente dimostrabile che l'oro, certo non puntualmente anno per anno, ma nel lungo termine ha sempre mantenuto quello che era il potere d'acquisto. Più o meno con un'oncia d'oro nel Rinascimento si poteva fare un vestito di ottima fattura. Bene, io credo che oggi con 1300 euro, tanto è il valore di un'oncia, si può fare un vestito di ottima fattura. Quindi l'oro conserva ancora il suo la sua principale caratteristica, appunto, di proteggere dall'aumento dei prezzi, quantomeno appunto nel lungo periodo, ma proprio in virtù di questa sua proprietà, di questa sua caratteristica, Mazziero, è possibile fare così una fotografia, scattare una fotografia di che tipologia di investimenti in prevalenza hanno scelto i risparmiatori, magari così concentrando la nostra attenzione su quelli di piccolo taglio, che sono fondamentalmente quelli che ci ascoltano? Negli ultimi anni, proprio alla luce della tendenza delle quotazioni, hanno privilegiato l'oro fisico o hanno cominciato a spostarsi un po' di più anche su quello finanziario, quindi sugli strumenti finanziari, li indicavo prima, fondi di investimento, ETC? Senz'altro in questi, allora, storicamente la cultura è sempre stata quella di andare sul fisico. C'è da dire che dal 2000, con anche l'avvento del trading online, è venuto cosa facile, quello di andare a investire su degli ETC, quindi diciamo prodotti finanziari che sono agganciati al valore dell'oro. Stiamo però vedendo in questo momento spostamento graduale, ancora non è un fenomeno molto grosso, da quelli che sono gli asset su, quindi diciamo l'acquisto di ETC, spostarsi poi sul fisico. E allora a questo punto ci sono una serie di soluzioni, ma credo che su questo ci potrà dire meglio il dottor Thomas senz'altro di ProAurum, appunto. Io volevo solo dire questo: non bisogna dimenticare poi l'investimento anche in azioni aurifere, perché anche questo costituisce uno degli elementi. Infatti noi alla Mazzero Research abbiamo proprio fatto uno studio quindi le società che per esempio fanno estrazione, non so, in Sudafrica piuttosto che in altre zone dove ci sono molte miniere. Certamente, questa è una grande opportunità, perché di fatto è un investimento sull'oro quasi a leva, se vogliamo. E proprio come dicevo, come Mazzero Research abbiamo proprio fatto un report, uno studio sull'oro, su tutti quelli che sono gli strumenti di investimento. Quindi sul sito si trova questo. Poi daremo tutte le caratteristiche, dottor Mazziero, la ringrazio. Volevo un attimo togliermi una curiosità con Fabrizio Vedana, poi vado al dottor Toma che ci deve raccontare tutto sulla Big Phil. Prima Mazziero spiegava come questo aumento delle quotazioni è stato determinato da queste misure molto espansive che sono state adottate dalle banche centrali, che hanno inondato di liquidità il sistema finanziario, portando naturalmente poi a questa liquidità anche su questo strumento. Da qui, per arrivare a chiederle, la Banca d'Italia quante riserve auree ha? Avete una statistica, avete delle indicazioni sul vostro libro? Ce l'abbiamo a pagina 46 del libro. Abbiamo riportato un'indicazione completa delle riserve auree delle banche centrali. In testa alla classifica abbiamo gli Stati Uniti, seguiti dalla Germania, il Fondo Monetario Internazionale, e quarta, quindi subito sotto il podio, abbiamo l'Italia, con la Banca d'Italia che ha riserve per quasi 2.500 tonnellate, il che corrisponde quasi a 100 miliardi di euro, considerato il valore attuale dell'oro. Nei momenti più acuti della crisi recente, quando lo spread schizzava a 1000, anche se adesso ancora non è che sia su livelli tanto rassicuranti, molti hanno di nuovo rievocato appunto la tentazione di vendita di questo oro detenuto dalla Banca d'Italia per poter alleggerire il peso del debito pubblico italiano. È un'operazione semplice, dottor Vedana? Sembrerebbe di no, non sia semplice, sicuramente si contra poi con le giuste gelosie della nostra autorità di vigilanza, che considera quell'oro come una riserva da utilizzare veramente nei momenti di emergenza. Sicuramente nei mesi scorsi, con lo spread che continuava a salire, qualcuno l'aveva ipotizzato come una situazione tale da giustificare quello come uno stato di emergenza e quindi valutare l'eventuale utilizzo anche di quelle riserve auree. Così non è stato, vedremo, speriamo che non ce ne sia bisogno. Sicuramente nell'ambito delle attività svolte dalle società di rating forse si dimentica che l'Italia ha anche comunque una quantità riserva enorme, perché ripeto, ne ha più della Francia, ne ha più della Cina, ne ha più della Svizzera, ne ha più della Russia. Gli Stati Uniti ne hanno sicuramente molto di più, ma l'Italia ne ha, ripeto, più anche del Regno Unito. Quindi che cos'ha nei suoi cavò la Banca d'Italia? Lingotti? Ai lingotti, monete, ai famosi lingotti, quelli da 12 kg. Famosi per lei, forse per noi non ne abbiamo neanche così cognizione. Detto questo, quindi sicuramente ha dei lingotti. Ha dei lingotti, la cui purezza è stata testata, perché una delle cose che si fa quando si acquista un lingotto da parte di una banca centrale è fare una sorta di carotaggio, un po' come si fa col parmigiano reggiano. Cioè si verifica che dentro non ci siano altri metalli, altre leghe pesanti quanto l'oro, ma ci sia effettivamente oro, altrimenti l'istituto, la banca centrale, via dicendo, rischiano di comprarsi qualcosa che pesa quanto l'oro ma che non è oro. Io ho avuto modo di poter assaggiare il modo in cui lo fanno visitando, nell'ambito della stesura di questo libro, una delle fabbriche che si occupa della raffinazione dell'oro, che si trovano soprattutto in Italia e anche in Svizzera, e devo dire che con mia grande sorpresa ho scoperto che è ancora molto di moda truccare anche i lingotti d'oro, mettendoci all'interno del lingotto, quindi esternamente oro, all'interno leghe molto pesanti, perché l'oro, sappiamo, ha un peso specifico 3 volte superiore rispetto a quello del ferro, quindi molto più pesante anche alzandolo. Ma qualcuno si è inventato delle leghe particolarmente pesanti in grado di sostituire, quindi rendere equivalente il peso, ma quindi ne alterano la composizione. Alterano la composizione e di conseguenza pensi di avere in mano un lingotto da 12 kg, in realtà rischi di avere in mano qualcosa che non vale 12 kg d'oro, ma 12 kg di metallo. Ah, però insomma, tutte informazioni che davvero non avevamo a disposizione, quantomeno io non sapevo che addirittura ci fosse questa possibilità di truffare anche la composizione del lingotto. Lo sapete cos'è che mi piace di più dell'oro? È che ne ho un sacco! Perché l'oro è così prezioso, zio Paperone? Perché è molto raro. Infatti posso vendere un pezzettino d'oro per un sacco di quattrini. E con l'oro si può anche fare una bella partita a dama. E insomma, Paperon de Paperoni che documenta al meglio su questo tipo di investimento qui qua qua, e questo era il contributo che abbiamo scelto oggi, perché per la verità anche le favole parlano molto di oro, anche Pinocchio ne parla, e questo passaggio della favola di Pinocchio viene riportato anche dal libro Investire in Oro, appunto con noi stamattina uno degli autori, Fabrizio Vedana. Tutto questo per dirvi che stiamo parlando appunto dell'investimento in oro, e noi abbiamo scelto di farlo questa mattina sia perché ogni tanto è interessante fare un punto della situazione su questo mercato, sugli strumenti di investimento scelti dalle famiglie italiane che vogliono in questo momento, come stanno facendo da molti anni, proteggere al massimo i propri capitali, ma anche perché c'è una iniziativa in Svizzera che si svolge dopodomani, giornata durante la quale verrà esposta la Big Phil, la moneta più grande d'Europa. Ad organizzare questa iniziativa la Pro Aurum, l'amministratore delegato, con noi Ralf Toma, che torno a salutare. Dottor Toma, io intanto le leggo questo messaggio di un'ascoltatrice, Tina, che ci racconta che in alcuni paesi, per la verità qui anche in Italia, e noi abbiamo visto queste macchinette negli aeroporti di Milano, ci sono delle macchinette distributrici di lingotto d'oro, di lingotti d'oro di vario peso. Volendo investire in un lingottino, cosa ne pensate di questa iniziativa? Chiedo a lei, dottor Toma, quando sente di questi fenomeni? Lei che cosa ne pensa? Insomma, voi che fate una conservazione di lingotti, credo, di altro taglio e di altre dimensioni, quando sente che addirittura si può andare in aeroporto, mettere 50 euro e comprarsi un lingottino, come valuta queste iniziative? No, quello è pazzesco come si è sviluppato tutto. Queste macchinette qui offrono, io non ho ancora visto una, ma mi sembra che offrono dei pesi piccoli, da un grammo forse fino a 10 grammi, presumo. Chiaro che i prezzi lì probabilmente sono più alti in generale del mercato. Avvocato Vedana, posso confessare che lei ne ha preso uno all'aeroporto, ha speso per un lingottino? Ben 40 euro, quindi era modestamente un piccolissimo lingotto da un grammo. Però quindi la sua iniziativa aveva una finalità scientifica, perché lei voleva documentare al meglio questo libro. No, in realtà libro, più che scientifica aveva l'obiettivo di regalare qualcosa di prezioso per uno dei miei figli, e poi dopo l'altro figlio si è lamentato, quindi non ho dovuto prendere un altro di lingottino da un grammo. Ma pure lei che si riduce in aeroporto a comprare regali ai bambini. Detto questo, dottor Toma, a parte gli aspetti folcloristici sui quali sorridiamo, questo tema invece è molto importante. Ci racconta un po' che cos'è questa Big Phil, la moneta più grande d'Europa, che voi esponete dopodomani, intanto esattamente dove, se ce lo vuole ricordare, e questo evento è aperto a tutti? Sì, certo, abbiamo il grande onore di poter mostrare questa moneta presso il nostro filiale a Manno, a Lugano, e sarà qui domani e il giovedì 25, è aperto dalle 9 alle 13 e 14:30 fino alle 17. E la moneta più grande d'Europa è stata coniata nel 2004 dalla zecca austriaca, la Münze Österreich, per l'anniversario di 15 anni. Difatti sono stati coniati solo 15 pezzi e sono sparsi in tutto il mondo ora, e una è in possesso della nostra sede principale a Monaco, dove è anche esposto di solito nell'atrio dell'azienda. Al momento stanno facendo un roadshow, si chiama, e lo portano in giro in tutte le filiali che hanno in Germania, in Austria, in Svizzera, e appunto domani e dopodomani è qui da noi. E quando è stata coniata nel 2004 era addirittura la più grande moneta del mondo, però nel frattempo è stato superato da due altre monete. Una è la maple leaf, la foglia d'acero del Canada, che pesa 100 kg, e la più grande ora è il nugget australiano della zecca Perth Mint, che pesa 1000 kg addirittura. Quindi questo per dire che il libro di Fabrizio Vedana manca ancora di un capitolo importante, appunto gli è sfuggito qualche cambiamento nel mondo dell'oro che stava avvenendo negli ultimi tempi, comunque si sono state appunto costruite e coniate queste monete di queste dimensioni così importanti. Dottor Toma, qual è la finalità dell'esposizione di questa moneta? Volete richiamare ulteriori investitori, appunto volete attirare altri investitori verso l'investimento in oro, volete cavalcare quest'onda che ancora sta appunto proseguendo sulla scia di una crisi finanziaria che ancora non è terminata, è una crisi economica ancora importante? Perché avete voluto mettere appunto in esposizione questa moneta e organizzare complessivamente tutta un'iniziativa di spiegazione anche, immagino, dell'investimento in oro? No, vogliamo soprattutto incuriosare la gente che tipo di monete che ci sono. Tanta gente pensa una moneta di investimento è un investimento enorme, ma abbiamo anche delle monete piccole, iniziando da un decimo di oncia, per esempio, che costa intorno, dove siamo al momento, a 90 euro il pezzo. Abbiamo di tutto, c'è la nonna che viene a comprare un regalino per la nipotina, come anche il grande investitore. Mi sembra che qui in Italia, o vicino all'Italia e anche in Ticino, la gente non si è ancora reso conto di tutti i problemi che abbiamo in Europa, perché in Germania la gente compra molto di più metallo prezioso. La relazione circa in Germania sono 90% di compratori e solo 10% di venditori, nonostante il prezzo ai massimi storici. Ma d'altronde sa com'è in Germania in questo momento, anche volendo comprarsi i propri titoli di Stato non valgono nulla, quindi anche gli investitori tedeschi hanno altri problemi, non investimenti rischiosi in casa propria, ma investimenti che non rendono molto. Dottor Toma, forse possiamo vederla anche da questo punto di vista. Allora, noi adesso abbiamo alcuni ascoltatori che vogliono togliersi delle curiosità sul tema di questa mattina. Vorrei sentire subito Alessandro da Roma con una testimonianza che mi pare di capire sia positiva su un investimento di questo tipo, quindi lei l'ha fatto, Alessandro, senza nessuna brutta sorpresa. Alessandro, buongiorno. Sì. Sì, ci dica. Io ho iniziato a pensare a investire in oro all'indomani dell'attacco alle Torri Gemelle nel 2001. Ah, quindi. Sì, tanto tempo fa praticamente. Quando l'oro era a 200 dollari l'oncia, esattamente. E ho cominciato invece a farlo dal vero 1005 attraverso dei conti in oro che alcune banche italiane mettono a disposizione, sì. E è andato tutto in maniera perfetta, sia come guadagno sia come, non ho avuto nessuna problematica. Alessandro, ultimamente sì, prego. No, chiedevo fisico, oro fisico, strumenti finanziari o fondi di investimento a parte i conti. Assolutamente solamente oro cartaceo, era oro veramente su carta che io avevo depositato presso i CAVO delle banche italiane all'epoca nel 2005 e ora invece ultimamente presso il CAVO di una banca inglese attraverso bullion, se posso dire, è un modo per investire molto comodo per via telematica che si fa con un utente, diciamo, inglese. Alessandro, io la ringrazio, la sento malissimo, comunque abbiamo capito il senso della sua testimonianza, però me la faccio tradurre dall'avvocato Vedana. Oro cartaceo, diceva Alessandro, tradotto in termini semplici per i nostri ascoltatori, che tipo di operazione ha fatto il nostro ascoltatore? Probabilmente l'investitore si è rivolto ad una di queste banche, lui ha citato Intesa, ma sicuramente ce ne sono un altro paio che operano nei distretti tipici che lavorano con loro, che sono Banca Etruria d'Arezzo e Banca di Vicenza, che è attiva nel distretto di Vicenza, che hanno da qualche anno a questa parte offerto il cosiddetto conto metalli, ovvero la possibilità di avere un conto denominato anziché in euro in oro, ovvero altre, sempre queste banche ed altre ultimamente se ne sono aggiunte, danno la possibilità ai clienti, senza tenersi nella propria abitazione oro, di acquistare una certa quantità di oro che viene depositata presso la banca, e quindi al cliente viene sostanzialmente dato un documento che certifica la sua titolarità di una determinata quantità di oro, che può essere di qualche grammo, può essere di qualche chilo, dipende dalle disponibilità del cliente. Certo. Evidente che quando si parla di oro spesso si parla di once, bene ricordarlo agli ascoltatori, l'oncia non è un grammo ma è 31 grammi, quindi un'oncia di oro sono 31 grammi, bisogna ricordarselo quando si leggono le quotazioni che vengono riportate quotidianamente anche sui giornali. Sole 24 ore in prima pagina riporta la quotazione di un'oncia d'oro, si legge 1700 dollari, ricordarsi uno che le quotazioni sono in oncia, quindi l'oncia è 31 grammi, due che le quotazioni vengono espresse in dollari, quindi sì, fare la conversione da dollaro ad euro e poi ricordarsi che bisogna dividere quello che ne resta per 31 per arrivare a quello che è il valore attuale di un grammo di oro. 1700 dollari l'oncia, siamo a 1700 euro? No, siamo a 1300 euro, 1300 sì, ho circa. Fatto una, sì, un'equazione e quindi siamo affrettata. Sotto i 40 euro a grammo. Esiste una moneta d'oro che pesa esattamente un'oncia? Esiste, è il Krugerrand, è una moneta sudafricana che prende il nome da Kruger, che era il presidente del Sudafrica dei primi anni del Novecento, Rand, che era la moneta sudafricana, ed è stata creata proprio per dare massima negoziabilità a questa moneta, cioè renderla di peso equivalente, quindi un Krugerrand contiene 31 grammi, quindi un'oncia di oro fino. Sulle quotazioni che si riportano anche sul 24 ore, ad esempio pagina 38 c'è la sezione Commodities Mercati Italia, c'è l'elenco delle monete d'oro, tra le monete d'oro più negoziate, più liquide, è proprio il Krugerrand. Perché più liquide? Perché uno degli aspetti da valutare quando si fa un investimento in oro è verificare bene la liquidabilità dell'investimento. Certo, o compri un lingotto, o se vuoi comprare una moneta, devi comprare una moneta che sia facilmente liquidabile. Quindi non tutti gli strumenti di investimento legati all'oro hanno lo stesso grado di liquidabilità, per cui dobbiamo tenere a mente anche questo aspetto. Nel momento in cui abbiamo bisogno di smontare, smobilizzare questo investimento, non è detto che possiamo farlo in 4 e 4/8, quindi non è detto che possiamo rientrare nella appunto titolarità del nostro denaro in tempi brevi. Ci fermiamo per qualche secondo, abbiamo i suggerimenti per chi è in viaggio, poi volevo tornare a Maurizio Mazziero riagganciandomi alla testimonianza che ci ha rilasciato prima l'ascoltatore di Roma, Alessandro, sul fatto che lui ha cominciato ad investire in oro a partire dal 2001, quando c'è stato il terribile crollo delle Torri Gemelle. Questo solamente con Mazziero per fare anche un discorso sul legame tra l'andamento delle quotazioni dell'oro e gli altri mercati finanziari. Abbiamo visto appunto che c'è generalmente decorrelazione, se vanno molto male le borse l'oro schizza, ma è sempre così, quindi gli chiedo di preparare così un commento su questo. Salutiamo il super ironico ascoltatore che ci prende in giro e ci scrive: volevo un consiglio per investire in tavolette di cioccolato fondente, cosa mi consiglia una top financial come lei? Le dico che fa bene, perché io questo è un investimento che faccio tutti i giorni con grande profitto, non tanto della linea ma sicuramente dell'umore e dello spirito, visto che non si firma. La salutiamo lo stesso cordialmente. Subito la testimonianza di Giuseppe da Milano. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno. Dunque niente, volevo fare questa testimonianza, nel senso che ai tempi, circa negli anni 70, il papà Natale, anziché regalare dei giocattoli o delle cose che oggi non avremmo più avuto, andava dal suora e faceva fare una moneta d'oro, un disco d'oro con scritto i nonni e l'anno del Natale. Di queste monete ne abbiamo circa una decina, no di più, 20, e oggi che sono adulto e ho dei figli, avevo valutato che vendendo questo oro avrei potuto acquistare una buona utilitaria ai miei ragazzi. E mentre per le ragazze, a parte le sorelle, il nonno faceva delle cose un po' più delicate, faceva fare dal suo orofo degli oggettini, tipo ad esempio ha fatto fare dei pesciolini in oro rosso, così richiamavano alla favola del pesciolino d'oro. E poi aveva fatto quella della capretta, poi aveva fatto quella della colombina. E oggi invece, no? Che cosa ci ha fatto? Un'altra auto, Giuseppe, con tutti questi animaletti? Oggi questi animaletti, le ragazze, hanno un valore che è veramente superiore, perché ai tempi nonno forse spendeva 10.000 lire, 50.000 lire. Sì, sì, ma no? Io mi ricordo, quindi, Giuseppe, assolutamente, che anche quando ero giovane io, la catenina del battesimo, della comunione, erano regali che non potevano assolutamente mancare da parte dei padrini madrini o delle madrine di battesimo, e oggi qualche volta lo guardavamo anche con un po' di supponenza quel regalo, non ci piaceva, magari ci piaceva qualche gioco, qualcosa di un po' più divertente, e magari appunto ad averne adesso per chi ha conservato questi regali, che hanno naturalmente molto di più che un valore, oltre a un valore simbolico molto importante, adesso ne aggiungiamo anche un altro altrettanto rilevante. Un commento di Maurizio Mazziero sul tema che gli indicavo prima: dal 2001 il nostro ascoltatore di Roma ha fatto grandi investimenti in oro con grande soddisfazione, ma esiste sempre la decorrelazione dal mercato, dagli altri mercati, appunto da quello azionario ed obbligazionario, Mazziero? Nel breve termine non direi, nel senso che quando scendono le borse scendono in maniera violenta sia l'oro, addirittura l'argento scende anche molto di più, però io incoraggerei l'investitore ad alzarsi un attimo più in alto, cercare di guardare un po' di più il panorama e allora guardare nel lungo. Ebbene, quello che ci ha raccontato il signor Giuseppe da Milano è diciamo la realtà del fatto che il potere di acquisto viene proprio mantenuto dall'oro. Non c'è investimento che possa fare questo, perché comunque si deve fronteggiare quella che è l'inflazione. Teniamo presente anche questo, che l'oro è l'unico asset che non è il debito di qualcun altro, perché comunque in ogni caso le obbligazioni sono debiti, i titoli di Stato sono debiti e anche le azioni rappresentano delle attività, ma sono sempre comunque un pezzo di qualche cosa di qualcun altro. E invece l'oro, se lo compro, è mio, punto e basta, non esiste appunto un'altra parte in una posizione di debolezza anche nei miei confronti, se vogliamo. Dottor Toma della ProAurum ci racconta quanti risparmiatori italiani sono venuti da lei negli ultimi mesi con, non dico delle valigette di denaro, ma comunque con delle disponibilità finanziarie piccole o grandi alla ricerca appunto della protezione dei propri investimenti, e voi che tipologia di investimento avete suggerito per affrontare anche questa crisi? Sì, è un po' difficile dire una cifra esatta, di solito arrivano qua con poco sotto 10.000 euro, perché è quello che possono portare dall'Italia in Svizzera. E comprano qui soprattutto monete da investimento, come diceva prima il signore, il Krüger Rent o anche il Filarmonica, che ovviamente di quella moneta che abbiamo qua dopo domani c'è anche il piccolo fratello che pesa solo un'uncia, oppure comprano dei lingotti. Comunque rimangono, la maggior parte rimane poco sotto 10.000 euro per non aver problemi alla dogana. Secondo lei questa tendenza alla ricerca dell'oro continuerà? Qual è il suo fiuto su questo andamento, dottor Toma, la sua sensazione? L'andamento dell'oro, dice, del prezzo? No, diciamo dell'investimento in questo strumento. Ma finché la gente non ha più fiducia nella carta, continua questa forma di investimento. La gente vuole avere in mano qualcosa e vuole portarselo via e portare a casa o in una cassetta di sicurezza. Se ha solo una cosa scritta in banca, la gente ormai non ha più tanta fiducia in questi investimenti. E quindi insomma l'andamento potrebbe essere ancora interessante a lungo, anche se poi prima Maurizio Mazziero ci ha detto che le quotazioni crescono e generalmente hanno un andamento di un certo tipo per un ventennio, siccome abbiamo cominciato all'inizio di questo secolo e siamo già nel 2012, chissà se abbiamo ancora davanti a noi 8 anni interessanti per poi subire un tracollo clamoroso, speriamo naturalmente di no. Avvocato Vedana, lei nel libro Investire in Oro si è occupato, edito dal Sole 24 Ore, del simpatico capitolo 6 sulla tassazione. Ci dica un po', per tutti gli investimenti che Alessandro ha fatto nel 2001 all'indomani del crollo delle Torri Gemelle, ammettendo di aver guadagnato molto, oggi volesse smontare il suo investimento, che tipo di impegni ha con il fisco? Pagherebbe un 20% di tasse sulla plusvalenza, quindi se avesse comprato pagando 100 e oggi rivendesse a 500, 400 la plusvalenza, su 400 deve calcolare il 20%, quindi 80 come imposta da versare al fisco. Questo vale per uno strumento finanziario così come per uno strumento fisico? Anche per lo strumento fisico, con le maggiori difficoltà legate al fatto che la vendita dello strumento fisico, del lingottino ad un altro privato, diciamo che tendenzialmente un po' sfugge a questo tipo di tassazione, diversamente dall'acquisto fatto di un ETF che passa necessariamente tramite una banca o un intermediario che funge da sostituto d'imposta e quindi in quel caso il 20% lo paga. È bene ricordare, perché non è sempre stato così, ma solo dal 2000 l'oro da investimento non è assoggettato al pagamento dell'IVA, quindi l'acquisto del lingottino, che fino al 2000, prima del 2000, veniva assoggettato anche al pagamento dell'IVA, oggi non è assoggettato ad IVA nella misura in cui viene fatto per investimento. Diverso è l'acquisto per finalità di tipo industriale, quindi l'oro da lavorare per la produzione di gioielli e quant'altro. L'oro non sfugge alle imposte di successione e donazione, quindi vanno fatti due calcoli con le franchigie che si applicano in questi casi. Nel nuovo spesometro si prevede altresì l'indicazione anche dei conti metalli, cioè del conto espresso non in euro ma in oro, tra quelli che devono essere valutati ai fini di valutare le capacità reddituali del cliente alla luce di quelle che sono le sue disponibilità bancarie o finanziarie anche sotto forma di conto metallo. La nostra trasmissione sta terminando. Fulvio da Milano, non riesco a farlo intervenire, ha investito in oro, inconvenienti che ha trovato, acquisto da privati, compro oro. Fulvio, questa sua considerazione richiederebbe una puntata a parte, noi la faremo al più presto, d'altronde le pagine dei giornali sono state piene in questi ultimi mesi di rilevazione sulla nascita di compro oro come funghi in tutte le città italiane. Magari vi daremo anche delle ci scrive in privato se vuole e le daremo qualche indicazione in più su questo. Grazie a Maurizio Mazziero, dottor Ralph Toma, Fabrizio Vedana. Salva Danaio torna domani. A tutti buona giornata.